La zanzara delle feste. Buonasera, buonasera da Alessio Maurizi in studio, Franco Piantani da Stefano Catone in redazione, Pietro La Corte questa sera in regia, orario 18, 20 e 30, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta sui temi dell'attualità. Siete lì tra gli ultimi regali, le cene, i pranzi, state meditando a cosa fare l'ultimo dell'anno, però intanto il mondo va avanti, qui si cambia l'Italia. Avete sentito poco fa chiuso il vertice misterioso di Monti alla ricerca dell'agenda di Monti, ne sapremo qualcosa di più, forse più avanti avremo anche un ospite che ci chiarirà che cosa succede attorno alla questione della salita di Monti, ma iniziamo dall'agenda. Tu sei straordinaria, sia esteticamente che come amica, cioè io ne ho provate tante, ma nessuna mi dà le brividi che mi dai tu. Voglio scrivere la mia storia in coppa a te, smemoranda. Si sa pochissimo dell'agenda Monti ancora, non si sa se sarà una lista al Senato, probabilmente sì, più liste alla Camera, è quello che si sente dire da giorni, retroscena, le indiscrezioni, un vertice oggi in un luogo sconosciuto, chissà perché, una sede non istituzionale, chissà perché. Tutto molto fumoso per ora. Quello che si sa di sicuro, abbiamo letto sui giornali di oggi, è l'endorsement, che è di ieri a dire la verità, del Vaticano con l'editoriale dell'Osservatore Romano. Sembra che si stia ricostituendo una vecchia, una nuova grande Democrazia Cristiana, un grande centro cattolico, chi lo sa. Ieri vi abbiamo chiesto se Monti è di destra o di sinistra o di centro, ve lo richiediamo anche stasera 800 24 00 24. Sta di fatto che questa questione del sostegno del Vaticano un po' gli ruga, soprattutto al PDL, perché poi diciamocelo, c'è tutta la cinghia di trasmissione delle parrocchie e possono portare anche voti indirettamente o anche direttamente. Qui si gioca proprio sui voti. Sentiamo Alfano che rivendica il matrimonio tra il PDL e la Chiesa. Noi ci siamo battuti e ci batteremo per dei valori che hanno rappresentato la traduzione politica della dottrina sociale della Chiesa. Mentre questi valori sono prevalenti all'interno del nostro schieramento, penso che siano minoritari in uno schieramento di sinistra qualora la sinistra dovesse vincere. E a guardare i nomi che circolano, ci sono liste di impresentabili sui giornali, ci sono parlamentari che sono dagli anni 70 in Parlamento e che si candidano con Monti, Casini, Fini, ieri abbiamo avuto Ichino che è stato eletto per la prima volta nel 79, più tardi avremo forse Mantovano, altri, sembra più una dunata di vecchie glorie parlamentari, insomma, diciamocelo, no? Piuttosto che un polo nuovo. Come farà Monti a rendere credibile questo concetto del rinnovamento rispetto a chi, lui dice, vuole conservare le cose come stanno in Italia, portandosi dietro tutta questa schiera di personaggi che alle spalle hanno anni e anni di politica? Non c'è niente di male, però sapendo qual è il gradimento, il grado di apprezzamento in questo periodo, insomma, da parte degli elettori di una certa classe politica, di un certo ceto politico, sembra che ci sia uno scarto tra le premesse di Monti e quello che poi si realizzerà, quello che abbiamo sotto gli occhi. Insomma, prendere i voti sarà tutta un'altra cosa. E poi c'è sempre il tema del salire e scendere, ma vi rendete conto che con questa cosa Monti ha cambiato il lessico per sempre, di questo almeno parte del linguaggio, della politica, non si potrà più dire tranquillamente scendo in politica, no? Perché adesso si sale, però c'è chi non scende né sale. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Io non voglio usare salite o discese. Io ho finito la mia esperienza. Mi sposto. Mi sposto semplicemente. È Piero Grasso, ex procuratore nazionale antimafia, non so se è ancora in carica, ha dato le dimissioni, insomma, di fatto dal 1 gennaio dovrebbe non essere più un magistrato, ha anticipato il pensionamento per candidarsi col Partito Democratico, non sale, non scende, ha detto si sposta, anche questa non è male, ma non credo che avrà la stessa fortuna di quella di Monti come trovata linguistica. Sentiamo allora, visto che è un po' il personaggio di queste ore, poi c'è anche la polemica sui magistrati che scendono in politica, che salgono o che si spostano in politica, e c'è anche un esposto del Codacons al TAR contro questa prospettiva che i magistrati possano transitare in politica. Grasso credo che sia fuori da questo perché lui si dimette, quindi non è solo un passaggio, ma è proprio la fine di una carriera da magistrato. Ma sentiamo l'esordio in conferenza stampa di Grasso tra alcuni aneddoti, ricordi particolari molto sentimentali. Ho trovato una casa e mi sento veramente a mio agio. Stamattina Annarella, che tutti conoscete, mi ha abbracciato, per entrato, mi ha detto benvenuto, cioè grazie. Allora qualcuno si chiederà perché questo cambiamento. Ho passato la vigilia di Natale una settimana col mio nipotino, con mio figlio e mio nipote, e ho riflettuto. Vedevo un bambino che già va alla prima elementare, 6 anni, che aveva tanta voglia di imparare, e mi chiedevo che futuro avrà questo mio nipotino. Annarella, il nipotino, sembra quasi Montiano anche Grasso, perché questi così, aneddoti personali, questa pacatezza, sembra che venga voglia di dirgli ma perché ti stai candidando, cioè ti stai mettendo in una questione grossa e importante come le elezioni. Vabbè, ma questi erano solo dei passaggi della conferenza stampa, quelli più così sentimentali, abbiamo detto, si è commosso anche. Un altro passaggio, sentiamo. Oggi nemmeno i mafiosi si fidano più delle promesse della politica. Abbiamo le intercettazioni in cui dicono ma quelli non promettono niente, allora dobbiamo rinnovarci e quindi dobbiamo cercare di metterci in campo. Spero non per essere credibili agli occhi dei mafiosi, credo che non sia questo che voleva dire Grasso. C'era un famoso passaggio in una intercettazione di presunti boss mafiosi che tra loro dicevano questo. Va bene, ci abbiamo il traffico, facciamo la pausa, poi continuiamo. Traffico. Eccoci qua, 800 24 00 24. Tra poco cominceremo anche a sentire i vostri interventi. Stiamo sentendo la conferenza stampa di Grasso oggi, che ha annunciato il suo spostamento in politica. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Io penso di avere un progetto che va oltre, un progetto che per quanto riguarda le cose che conosco da tecnico è un progetto di una rivoluzione del sistema giustizia. Vuole rivoluzionare la giustizia Piero Grasso, che sarà capolista, ha detto Bersani, non si sa dove, ma in una regione per il Partito Democratico. Ma è giusto che i magistrati si candidino in politica? È una questione che ritorna ogni volta che questo accade. A questo giro ce ne sono diversi: D'Ambruoso, che sta facendo politica per Italia Futura, c'è Ingroia che si candiderà con la sinistra di De Magistris, c'è appunto Grasso con il PD, ma ci sono casi anche nel centrodestra. Mantovano, per esempio, a suo tempo si era candidato. Ma insomma, forse con le notizie di cui vengono a conoscenza i magistrati con il loro lavoro, poi andare a fare politica non è una cosa così semplice e naturale. Fino ad oggi è stato possibile. Qualche perplessità comincia ad affiorare, diciamo, del ricorso del Codacons. Questo è Nicky Vendola, sentiamo. Lei come vede l'approdo di tanti magistrati in politica? C'è Ingroia, c'è Grasso, c'è D'Ambruoso? Ma insomma, non è una novità, non è la prima volta, è sempre accaduto. Ma va bene o no? Insomma, io credo che forse una riflessione su questo tema, perché c'è una specificità nel lavoro di chi ha un potere così grande come quello di privare gli altri cittadini della libertà personale. Forse una riflessione, tuttavia, vale la pena oggi, di fronte a un quadro normativo vigente che consente l'esercizio di questo diritto anche ai magistrati. 800 24 00 24, vi chiediamo: è giusto che i magistrati facciano politica? Sui giornali di oggi sono i sondaggi e sul Corriere in particolare ce n'è uno che fa vedere come veramente sarà la Lombardia cruciale per il premio di maggioranza al Senato. E complessivamente la Lombardia assegna quasi 50 seggi al Senato. E cosa succede in Lombardia? Succede che Gabriele Albertini ha annunciato poco fa, ha confermato che non rinuncia a candidarsi per la regione contro Maroni e contro Ambrosoli per il centro-sinistra, e lo ha fatto Albertini con questa lettera, una candidatura, quella di Albertini, che rischia di spaccare il centro-destra, consegnando forse, chissà, una parte di questi seggi magari al centro-sinistra. Caro, ecco la lettera di Albertini a Berlusconi. Egregio Presidente, caro Silvio, non ce la faccio a dirtelo a voce, per questo mi rivolgo a te per iscritto. A questo punto non posso proprio, neanche se lo volessi, acconsentire alla tua richiesta. La candidatura non è ormai più mia, piuttosto nostra, sono ormai direttamente coinvolte migliaia di persone e qualche milione ci osserva. È molto probabile che la tua previsione s'avveri, magari per il concorso dei potenti mezzi di informazione di cui disponi e del peso della tua personalità. Posso perdere certamente la tua amicizia e questo mi dolora. Probabilmente la presidenza della Lombardia ed un po' mi dispiace, ma l'ho messo in conto. Non perderò invece ciò che per me è sempre contato, più di qualsiasi altra cosa, il rispetto in tutta modestia della mia coscienza. Vorrei che lo pensassi anche tu, o perlomeno potessi accettare che in tutta buona fede ne sia sinceramente convinto. Puoi continuare ad attribuire alla mia smodata ambizione, come hai già fatto, la mia condotta. In cuor tuo sai che non sono queste le mie motivazioni. E poi qua c'è la parte sentimentale. Ti sono infinitamente riconoscente per tutto il bene, ed è stato davvero tanto che ho ricevuto da te. So che non conserverò la tua stima né la tua amicizia, e mi pesa molto per quanto mi riguarda, anche se so di non poter essere ricambiato. Ti abbraccio, Gabriele. Ma perché non deve essere ricambiato in un abbraccio? Albertini è disperato per avere perso l'amicizia di Berlusconi, però va avanti, annuncia la conferma della sua candidatura. Sentiamo allora, anche che già che ci siamo, anche Maroni, che nel gioco della Lombardia conta e come se conta, che dice sostanzialmente a questo punto dell'accordo con il PDL possiamo anche farne a meno. No, grazie, nessuno scambio, men che meno per poltrone romane. Noi abbiamo il nostro progetto, l'Euroregione Nord, il 75% delle tasse pagate qua, chi è d'accordo ci può sostenere, altrimenti amici come prima. 800 24 00 24, tra poco con i vostri interventi in diretta, e cominciamo invece salutando Guido Crosetto. Buonasera. Buonasera a voi. Fondatore insieme a Giorgia Meloni e a Ignazio La Russa, a questo punto, di Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale. Questo è il nome corretto? C'è stato un po' di qualche aggiustamento. Oggi avete presentato, abbiamo visto un tweet di Giorgia Meloni, avete presentato proprio il simbolo. No, oggi abbiamo fatto la Costituzione dal notaio, il simbolo l'avevamo già presentato la settimana scorsa. Ok, sì, la Costituzione dal notaio, quindi un passaggio squisitamente legale. Sì, esatto. È andato tutto bene? Sì, il notaio era una brava persona, tutto a posto. E per quanto riguarda Crosetto, invece, il discorso delle firme, oggi è passato definitivamente la questione della riduzione del numero di firme necessarie alle liste. Chi, come voi, per esempio, insomma, parte, non dico da zero, ma però... No, da zero, lo dica pure, da zero. Quante sono le firme che dovete raggiungere? Beh, a questo punto il 25%, quindi dovrebbero essere 30.000. 30.000. Però invece chi ha già un gruppo parlamentare costituito, come per esempio altri partiti tipo l'UDC, ne bastano ancora meno? No, non le, chi ha un gruppo parlamentare non le raccoglie proprio. Perché io ho letto sull'agenzia, diceva il 65% ancora in meno di questi 30.000. Quelli sarebbe... che hanno un solo gruppo, quelli che hanno gruppo Camera-Senato, tipo il PDL, sì, non le raccolgono. Ecco, quindi diciamo che la strada in salita ce l'avete voi, però questo... Vabbè, guardi, secondo me non è un, per carità, è sempre un problema organizzativo, ma sì, intanto è un modo per vedere se c'è qualcuno, beh, giusto, certo, che ci crede o che ha voglia di darci una mano, quindi non lo considero una cosa negativa. Sono d'accordo con lei, Crosetto. Ma voi, diciamo, vi candidate in qualche modo già partendo in una prospettiva di alleanza con il PDL. Fiancheggiatori da destra o dal centro? No, guardi, noi abbiamo fatto un percorso diverso, nel senso che quello che porta Ignazio La Russa fuori è diverso da quello che mi ha portato me e Giorgio. Alla fine noi crediamo ancora in un centrodestra, ci pareva che il PDL è un centrodestra che vada, mi passi il termine, da quelli che avevano intravisto in Renzi una speranza anche se la candidata del PD, fino a quelli che arrivano a un'esperienza come quella di Alleanza Nazionale, cioè mettendo dentro i liberali, i cattolici, sì, quelli che non si riconoscono nella sinistra, quindi non ci poniamo a destra, a sinistra, cioè noi vorremmo in qualche modo fare un partito di centrodestra che sia quello che il PDL non è diventato, quindi che abbia meccanismi democratici interni, che abbia un ricambio della classe dirigente, che sappia anche puntare sui giovani. Quindi ce ne siamo andati per questo motivo, sappiamo che l'avventura che effetto avrà, ma almeno ci si riconosca il merito che tutti e tre abbiamo abbandonato posizioni che nel PDL ci avrebbero consentito, e tanto questa legge che tutti e tre abbiamo versato. Quindi diciamo le posizioni politiche sono assimilabili a quelle del PDL. No, è una questione destra con un giudizio molto severo, difatti l'ultimo punto per me è stato, che mi ha convinto ad andarmene, è stata la proposta a Monti di fare il candidato. Ecco, ma questo è curioso, no? Io ho sempre votato contro i provvedimenti economici di Monti, non li considero la ricetta giusta per il nostro paese. Non mi piacciono ricette economiche che vanno bene per i grandi di Bruxelles e non vanno bene per gli artigiani, gli agricoltori o le famiglie italiane, per cui io ho considerato quello il punto massimo raggiunto al PDL che mi ha portato ad uscire. Ecco, ma se invece Monti avesse accettato l'offerta di Berlusconi e si fosse proposto come federatore, no, dei moderati, che sarebbe successo? Lei per esempio, vabbè, perché il governo Monti è stata una cosa, però adesso Monti... Nel senso che a quel punto l'estate erano due, o a casa o comunque fuori da quella coalizione. Però non è vero, Crosetto, che insomma altrove in Europa probabilmente Monti potrebbe tranquillamente essere il leader di un partito di centrodestra? Guardi, assolutamente sì. Io ho letto anche con attenzione l'agenda Monti e ho trovato delle cose assolutamente condivisibili. Altre meno, ma poi però ho visto cosa ha fatto in quest'anno e purtroppo, avendo avuto ragione fin dal primo momento, ma mi dispiace, io avrei potuto aver torto, cioè avendo visto che queste politiche economiche hanno portato all'aumento del debito, all'aumento della tassazione, a una diminuzione del prodotto interno lordo e a un paese ancora più in difficoltà rispetto all'anno prossimo, hanno soltanto migliorato lo spread, ma il deficit, i bilanci delle famiglie sono peggiorati, e di fronte a questo secondo me non è che puoi far finta di niente e dire, siccome va di moda Monti, dopo averlo versato un anno nelle indicazioni economiche vado con lui, per cui io preferirevo mantenere la coerenza. Senta, si discute un po' anche di questa questione dell'endorsement, l'editoriale dell'Osservatore Romano, si leggono indiscrezioni sul fatto che un po' le gerarchie vaticane, tutte, non ci sono virgolettati perché non ci sono mai in questi casi, però che sposano in toto l'operazione Monti, eccetera. Lei che tra l'altro ha un passato da giovanissimo nella DC. Cattolico. Io sono un cattolico dal punto di vista cattolico molto peggio di Monti, perché probabilmente molto più praticante di me, ma per carità, mi sembra di tornare indietro. Io credo nella laicità della politica e non riesco a capire come possa esserci da parte della Chiesa o di un quotidiano che rappresenta, come mi hanno insegnato da piccolo, le parole direttamente del pontefice, un endorsement a una persona che, per quanto stimabile, per quanto un galantuomo, per quanto persona di fronte a cui, alla cui storia mi inchino, non mi pare abbia tenuto conto di cosa succede nelle famiglie e nelle aziende italiane in quest'ultimo anno. Il compito della politica non è rispondere ai poteri forti, è rispondere al popolo. Quindi secondo lei Monti è più un'espressione, diciamo, delle gerarchie vaticane che non dei valori della Chiesa? I valori vanno declinati nella politica. Questa cosa del suo stile di vita molto sobrio, questo è abbastanza in linea. Questo, guardi, questa è una cosa che mi accomuna, parte il Loden, che non lo trovo della mia misura. È un gigante, Crosetto. Nel senso che è una delle cose che mi piacciono molto di Monti, che vorrei fosse un patrimonio di tutta la politica, da sinistra a destra, quindi su quello non ho nulla da criticare. Certo, guardi, le faccio un esempio banale, probabilmente su di me o su di lei, al di là del fatto che possiamo arrabbiarci se la paghiamo sulla prima casa, l'IMU non ci ha impedito probabilmente a dicembre di fare quello che avevamo fatto l'anno precedente, ma molte famiglie italiane, parlo soprattutto di quelle delle classi più basse, pagare la seconda rata dell'IMU ha impedito di fare quello che avrebbero fatto negli anni precedenti a Natale, e c'è un limite alla tassazione. Cioè, un cattolico si pone il limite che quando vado a fare una tassa, quella tassa può incidere lo 0,1% su una famiglia, ma su un pensionato con 500 euro di pensione, la seconda rata dell'IMU magari ha fatto una volta e mezza o due la pensione. Cioè, tu non puoi fare la politica senza tener conto di tutti. Sono poco cattolico quello. Ancora qualche minuto per stare con noi, perché noi avremo una pausa, brevissima, breve, per le informazioni. Sì, ma sono un abitué, conosco i vostri tempi. Sai, conoscete, perfetto. Allora, le poi, anticipo anche... Lorenzo e Crociani è un divertimento. Vabbè, insomma, spero che si diverta anche stasera, che non ci sono no, loro. No, divertimento se non ci sono loro. Ah, ecco, l'avevo capito. Io dico così, lo sentono. Crosetto, le anticipo due domande che le volevo fare. Una, come è finita la vicenda dell'aeroporto di Cuneo? E l'altra, un ascoltatore che ci chiede, ma perché non vi unite a Giannino e al movimento Fermare il Declino? Queste gliele butto. Due belle, grazie. Tra poco, borsa. La Zanzara. Eccoci qua di nuovo in diretta 800 24 00 24. Tra poco cominciamo anche a sentire i vostri interventi. Intanto però una notizia: Mario Monti terrà una conferenza stampa al Senato alle 19. Lo comunica, fa sapere l'ANSA, il professore su Twitter. Già Monti che twitta è fantastico, perché sembra con quest'area da nonnetto rassicurante che ha imparato a twittare, è fantastico. È in compagnia di Guido Crosetto, che oggi ha depositato dal notaio insieme ai suoi compagni d'avventura il che cosa avete depositato? Proprio il abbiamo firmato la Costituzione. La Costituzione, ecco, del partito, Fratelli d'Italia, Centrodestra Nazionale. Sui messaggi al 349-238-6666, bello leggere bei messaggi, c'è questo: non voterò più Berlusconi, ma voterò sicuramente Crosetto e la Meloni, perché mi sembrano onesti, cosa rara nella politica. Firmato Roberto. Intanto incassiamo, no, Crosetto? Questo... Ringrazio Roberto, una responsabilità più che un complimento. La questione dell'aeroporto di Cuneo. Lei è un personaggio eclettico, perché ha fatto, addirittura non lo sapevo, ha fondato insieme a Petrini l'università Scienza della Gastronomia. No, guardi, era successa una cosa strana. Petrini è un genio, no? Come tutti i geni visionari. Poi quando c'è da fare le cose pratiche è un po' più in difficoltà. E quando è iniziata quella cosa... Sì. Si sono trovati in difficoltà perché stavano ristrutturando questo bellissimo luogo Pollenzo, dove poi c'è stata, avevano problemi con la ditta, e l'allora Presidente della Regione mi chiese di andargli a dare una mano, io andai lì a risolvere i problemi pratici. Lei che ha fatto anche l'imprenditore. Sì, io farlo, cerco di continuare a farlo, nonostante tutto quello che fanno per farmi cambiare idea, e l'ho risolto in 6 mesi, poi me ne sono andato e quindi ho consentito che si finisse, da allora sono diventato amico. Petrini. Dicevamo del passato nella DC, Movimento Giovanile, anche all'università, cioè adesso appunto arrivando in avanti abbiamo detto, e poi a un certo punto è arrivata questa nomina all'aeroporto, presidente dell'aeroporto di Cuneo, no? E, sì. Però poi c'è stato... Presidente dell'aeroporto di Cuneo è arrivata, parliamo di 6 mesi fa, sì. Ecco. La presidente della provincia, che è Lega, il sindaco di Savigliano, che è un comune della mia provincia, che è del PD, il sindaco di Cuneo, che è del PD, l'associazione artigiani, la Camera del Commercio, visto che è un aeroporto boccheggiante da anni, mi hanno chiesto di fare questa cosa gratuitamente. Io avevo detto di sì, poi dopo un mese i radicali mi hanno detto: guarda che c'è una legge del 50 e qualcosa che prevede che i parlamentari non possano, mi sono dimesso. E basta. Mi dispiace per loro, perché avevano trovato un presidente gratis che si chiama la sala. Che poteva essere comodo, però non c'è in questa questione degli aeroporti un po' anche una cartina di tornasole di come non va come dovrebbe forse proprio l'Italia? Io capisco che lei abbia accettato in spirito di servizio per il suo territorio, però non ci sono troppe. Accettato, poi dovuto rifiutare. Perché siccome io ho sempre votato contro i soldi nell'aeroporto di Valdigi, ho accettato dicendo: benissimo, io in 6 mesi vi dico se è salvabile o se va chiuso. E mi sono messo a lavorare su quello, perché considero incancrenire un investimento pubblico in una cosa che non funziona stupido, e non possiamo permetterci di buttarvi. Perché diciamocelo che insomma in Italia ci sono tanti troppi aeroporti, mi sembra che questo ormai sia una cosa che per esempio la prossima legislatura... Vero, guardi piano, che mi risulta che Grilli non abbia firmato le licenze a diversi aeroporti, tra cui quello di Cuneo, sì, ieri, e quindi molti saranno chiusi, tra quelli ci saranno quelli che era giusto chiudere e quelli che probabilmente gestiti bene potevano avere un futuro. Come al solito si mette tutto insieme, e ne hanno tenuti aperti altri che invece non hanno motivo di esistere. Però tra correre il rischio di aprirne qualcuno di più e magari chiuderne qualcuno, poi si vedrà che poteva funzionare, ma razionalizzare forse delle due cose, credo che Crosetto una Io volta tanto per è d'accordo. Perché sono convinto che, vede, noi abbiamo aperti molti aeroporti in Italia perché qualche provincia o qualche sindaco doveva mettersi la spilletta di aver aperto l'aeroporto. Esatto. e non si è preoccupato che l'aeroporto servisse a portare turisti oppure a portare imprenditori, no? Che è lo scopo principale, cioè l'aeroporto è un'entrata in un luogo fisico, no? Che non ha bisogno di grandi investimenti infrastrutturali, perché un'autostrada o una ferrovia hanno bisogno di miliardi di investimenti, un aeroporto è un buco, no? Che io apro in un territorio che consente di arrivare a tutto il mondo, no? Ma bisogna poi che sia alimentato con un percorso turistico serio, cioè con un incoming serio. No? Sì, certo, se no diventa una fonte di spesa anche, possibilmente, e non costa, serve a nulla. Certo. Alla questione, l'altra domanda che le faceva un ascoltatore sempre sui nostri messaggi, era quella, ma perché non vi unite a Giannino? Perché, guardi, Oscar è uno, a parte che è un amico, ma io per dirla, io sono molto più vicino a Oscar Giannino di quanto posso essere come storia o come cultura proprio in cui sono cresciuto rispetto a Ignazio La Russa. Con Oscar lo cerco, guardi, l'ho cercato anche oggi 2 o 3 volte. Oscar non vuole stare in un'alleanza di centrodestra, ma io lo farei domani mattina con lui. Io invece sarei per metterla assieme in un nuovo contenitore con le caratteristiche di trasparenza, pulizia, cioè un luogo di cui non vergognarsi, tutte le anime del centrodestra, e lui è una di quelle a cui mi sento più vicino, quindi si figuri, sì. Gli lascio il mio posto domani per averlo di fianco. Va bene, insomma, abbiamo risposto anche a questo. Io mi fermerei qua, andrei avanti, perché Crosetto è simpatico, sinceramente, però ci sono gli ascoltatori. Sì. Stampa di Monti. Sì. Io qualche mese fa, se lei va a cercarsela, fu l'unica dichiarazione, dissi che non mi era piaciuto il modo con cui Monti aveva nominato presidente e direttore generale della RAI, perché dissi è la nomina fatta da una persona da sola. Era criticabile anche se lui non fosse entrato in politica. Oggi che lui diventa una parte politica, il fatto che due cariche come quella di presidente e direttore generale della RAI siano state scelte da lui come persona, diventa una cosa accettabile? Il fatto che il presidente dell'AGCOM, cioè l'autority che controlla, sia stata messa da lui. Però non è sempre avvenuto così, Crosetto, non sono sempre nomine. No, ma prima, purtroppo, per fortuna, sì, in un modo che magari è contestabile, avveniva in una mediazione, in un equilibrio, mi passi il termine, tra i partiti. Berlusconi, che era di centrodestra, nominava un presidente RAI che rappresentava l'altra parte, no? C'era questo equilibrio che può piacere, non piacere, no? Ma lei pensi a Garimberti, no? Sì. Che invece non era sicuramente un esponente vicino a Berlusconi. Poi. Allora, invece, questo fatto di avere nomini che sono state fatte da una persona che si è confrontata con se stesso, potevano avere un senso, quella persona manteneva la terzietà con cui era nata. Adesso diventa una cosa molto più... C'è un cortocircuito, insomma, l'ha nominato lui e secondo lei gli consente di fare... Però a onor del vero c'è da dire che proprio oggi l'AGCOM ha deliberato, non so come si dice esattamente, il regolamento per la par condicio, sì, sì, e ha esteso, come chiesto anche dal centrodestra, dal PDL chiaramente, ma insomma credo un po' da tutti, anche ai non candidati, come Monti per ora, le regole della par condicio. Quindi credo che da oggi questa conferenza stampa entrerà in quota presenze TV, quindi poi no, dovrebbe essere scontata sul futuro. Almeno questo è quello che abbiamo letto nel pomeriggio. Sì, l'ho letto anch'io, l'ho trovato, perché sembra corretto, insomma. Vale per quelli che si candidano. Sì. No, ma in questo caso viene estesa in tutte le trasmissioni, bla bla bla, non è ammessa alcun titolo la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili, questa credo che sia dedicata proprio a Monti o ad altri, a soggetti politici. Quindi da questo momento in poi anche Monti rientra in questa quota. Ma guardi, io invece sono uno che mi piacerebbe parlassero quelli che hanno veramente qualcosa da dire, considero lui uno di quelli che ha veramente qualcosa da dire, anche se molto spesso non lo condivido, piuttosto che vedere persone che occuperanno televisione in par condicio avendo nulla da dire. Questo è vero, è anche vero che qualcosa Monti ce lo dovrà pur dire, perché c'è molto io mistero. Vorrei però che lo dicesse, sì, perché non si sa ancora niente di tutta questa operazione. Va bene, grazie, auguri a Guido Crosetto, buona serata. Buon anno anche a lei, a tutta la buon radio. Anno. Eccoci qua, 18.42, qualche ascoltatore, Rodolfo dalla provincia di Mantova, buonasera, benvenuto, 800 24 00 24. Sì, buonasera, niente, io sono di Moglia, che è un paese colpito dal terremoto a confine con l'Emilia. Va bene. Ma quello che volevo dire è che noi non possiamo più credere a questi politici riciclati, perché qui non è arrivato un soldo E quindi io penso che chi sarebbero i politici riciclati? Tutti quelli che stanno facendo tutte le parole del mondo, tutti quelli che parlano di politica e basta, e non fanno niente. Quindi qui manca la legalità. E tutti quelli, i magistrati che scenderanno in politica, io penso che siano un toccasana per questa politica che fa schifo. Noi in Lombardia abbiamo un consiglio regionale che si è dimesso perché compravano i soldi compravano i voti con i soldi della mafia. Cioè lei dice che i magistrati sono portatori di una, come dire, di una morale, di un'incorruttibilità maggiore rispetto ai normali candidati politici. Sono quelli che ci vogliono, perché ma hanno i magistrati ci vogliono nel ruolo dei magistrati. Tutto quello che potevano rubare l'hanno rubato, perché è successo nel Lazio, è successo in Lombardia, è successo dappertutto. E noi qui stiamo aspettando i soldi. Io qui sono in piazza, in questo piccolo paesino, dove abbiamo fatto i mutui per andare in casa nostra. I mutui abbiamo dovuto fare, 60.000 euro di mutuo ho fatto io per andare in casa mia. E ho 60 anni. Questo per via del terremoto? Per forza, perché se lei voleva andare a casa sua, chi glieli dà i soldi? Se non ce li aveva. Ci sono persone ancora fuori casa. Allora questi politici, quelli che stanno continuando a fare la politica, quelli che... cosa fanno per queste cose? Noi faremo una marcia insieme a quelli dell'Aquila per andare a Roma, perché anche all'Aquila hanno fatto la stessa cosa, parole, si fanno vedere, vanno lì, fanno vedere, faremo, arriveranno, ma cosa arriva? Cosa fanno? Niente. Beh, certo che anche se sono situazioni complesse, però è evidente che sono proprio in questi momenti in cui mancano delle risposte concrete che insomma la rabbia è comprensibile, no? Perché ma lei ha visto cosa sta succedendo nella regione Lombardia? Ma lasci perdere, lei adesso ha chiamato per un'altra questione. Regione, sì. Noi siamo in Lombardia. Sì. Però lei mi ha parlato di una questione che è relativa al terremoto, no? E alle conseguenze di quello che è stato. Poi, capito, ma quando lei su deve questo fare la un seguo mutuo per andare a casa sua e ci sono delle persone che prendono 9.000 euro al mese e vanno a cena a cosa, a base di tartufo, nelle cene istituzionali, sono quelli che vogliono il federalismo. Va bene, grazie. Dicono dobbiamo tenere qui i nostri soldi, perché per cosa? Per fare cosa? Per darli a chi? Grazie Rodolfo. 800 24 0024, proseguiamo tra un attimo. La Zanzara. Riprendiamo con Daniel che ci chiama dalla provincia di Cremona. 824 0024. Daniel, buonasera. Daniel nel frattempo sta scendendo le scale di casa sua e si è dimenticato che era in linea con noi. Allora andiamo a Franco che ci chiama da Roma. Buonasera. Sì, buonasera. Senta, guarda, io volevo dire questo, all'inizio voi avete fatto una domanda se Monti è di destra, di sinistra o di centro. Se c'ha il viva voce acceso lo tolga perché si sente maluccio. Io volevo dire questo, ecco. Che secondo me non è né di destra né di sinistra né di centro, ma è solamente massonico. E eccola, sì. È purtroppo sì, per il semplice fatto che, ahimè, una parte anche della... Io sono un cristiano cattolico praticante romano. Una parte della Chiesa romana, vaticana, e quindi della, diciamo, dei vertici, alcune volte nella storia ha fatto occhiolino alla massoneria. Le dico questo perché praticamente l'atteggiamento che ha avuto Monti in questi mesi sicuramente non è di carattere cattolico e cristiano, per le considerazioni che faceva anche a quelle persone che fatto bene o fatto male si uccidevano, e secondo me facevano male, dicendo che erano dei danni collaterali. Questo un cristiano e la Chiesa non avrebbe mai dovuto accettare una considerazione di questo genere. Cioè lei è d'accordo con Crosetto che ha detto che la sintonia tra Monti e la Chiesa è più relativa all'apparato, all'endorsement del Vaticano che non ai valori della Chiesa. Diciamolo così, che la base cattolica vera sicuramente può cioè veramente la Chiesa ahimè è caduta in un tranello massonico proprio pieno con tutte le scarpe. Purtroppo mi dispiace una parte della Chiesa, perché anche all'interno della Chiesa ci sono delle divisioni e tutti sanno, nessuno le dice, ma ci sono. Vabbè. E purtroppo in parole povere, sì, la Chiesa ha sbagliato a fare un endorsement di questo genere, e nello stesso tempo credo che quella parte di cattolici che pensano di fare il nuovo centro sbagliano, perché non sono né nuovi, non c'è nulla di nuovo, perché all'apice sempre dei sistemi finanziari. Grazie Franco, io ho detto che sembra una adunata di vecchie glorie parlamentari, perché in effetti a guardare i nomi dei parlamentari che si intendono ricandidare con Monti, c'è gente che è lì da 30 anni, no, questo è vero. L'endorsement dell'Osservatore Romano è quello che è, un editoriale del quotidiano, espressione della Segreteria di Stato Vaticana, è quindi una parte sicuramente importante della Chiesa. Poi quando si dice la Chiesa è ovviamente una semplificazione, perché non c'è una voce unica della Chiesa. Andiamo a Milano, Alessio da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io volevo fare due osservazioni sulla candidatura dei magistrati. Perché francamente i magistrati sono organi costituzionali, se si candidano non possono tenere i piedi in due scarpe, devono assolutamente dimettersi, non prendere l'aspettativa in maniera che poi al termine di mandato ritornano a fare quello che facevano prima. Mi sembra una cosa che, per la verità, mi sembra che già Monti ci aveva pensato a fare un emendamento del genere a un provvedimento di legge. Sì. Oddio, dico la verità, io sono abbastanza d'accordo con lei, non sono un esperto della materia costituzionale, però mi sembra buon senso che, essendo due poteri costituzionali, quello giudiziario e quello insomma legislativo, esecutivo, una divisione ci deve essere. Se uno passa da una parte all'altra è possibile, però senza possibilità di ritorno. Credo anche che il ritorno all'indietro sia un'eventualità piuttosto rara, perché quando cominciano a darsi alla politica gli ex magistrati, mi pare insomma di avere molte esperienze, da Mantovano a Casson, insomma non tornano indietro, però questa non è una garanzia che questo non possa avvenire. E poi c'è la questione delle notizie segrete, riservate, che possono essere venute a conoscenza da magistrati e che potrebbero essere usate sul piano politico. Questo non lo dice nessuno, almeno mi pare, però è una cosa un po' delicata, insomma, senza voler mettere sbarramenti a una professione piuttosto che all'altra. Quindi condivido una parte delle sue perplessità. Gregorio, sempre da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Eccoci qua. Senta, io volevo dire, proprio a proposito della questione dei magistrati, no? Che questo paese qui è abbastanza curioso, perché ci si preoccupa dei magistrati che entrano in politica e non ci si preoccupa invece di gente che sta nel Parlamento, che è pluricondannata, indagata, cose di questo genere. Cioè, mi sembra veramente un paese un po' ipocrita, no? Che si preoccupa di cose che non stanno né in cielo né in terra. Cioè, lei dice, nella scala delle priorità viene prima il condannato che sta in Parlamento piuttosto che il magistrato con questo sospetto di conflitto di interessi. Ma insomma, un magistrato è una persona per bene fino a prova contraria, sì. No? Cioè, e poi se parliamo del caso di Grasso, addirittura si è dimesso, quindi non c'è neanche il cosiddetto pericolo. Beh, lì è evidente. Questo ha fatto bene a puntualizzarlo, perché in effetti lui adesso non è più magistrato. Appunto, non sarà più. Dire, resta l'altra questione, ma sì. Cioè, ecco, a me dà fastidio l'ipocrisia di tanta gente di questo paese. Anche prima c'era Crosetto, che è una persona che io stimo, che poneva la questione della RAI, quando fino a poco tempo fa il presidente, il Berlusconi era padrone della RAI e della Mediaset, e quindi della televisione privata. E allora quello invece allora gli andava bene. Cioè, è questa ipocrisia veramente che mi dà un fastidio incredibile. Cioè. Va bene. Grazie. Questo. Non grazie so se abbiamo recuperato Daniel dalla provincia di Cremona. Sì, ce l'abbiamo. Daniel. Pronto? Eccolo. Pronto. Pronti. Buonasera. Buonasera. Sono molto contento e emozionato di parlare con Sara. Sì. Ecco, voglio dire tre cose io. Sono molto contento della candidatura di Monti, perché era ora che arriva una persona affidabile. Basta con questa classe politica destra e sinistra. Sono 30 anni che sono loro lì. Mm-hmm. Non ne vogliamo più di loro. La Finocchiaro, la Bindi, Gappari, Cicchito, sono gente che stanno lì da 30 anni. Non guardi che Monti si porta dietro gente, per dire, noi ieri abbiamo intervistato gentiluomo di Pietro Ichino, che però è stato eletto la prima volta nel 1979. Quindi se questo è il metro del suo giudizio, forse deve rivedere le conclusioni del suo ragionamento. Perché, sì, però no, non va bene, già. Perché quella gente lì è un marcio che c'è al Parlamento, che bisogna cambiare, bisogna mettere gente nuova, hai capito? Perché questo paese non cambierà mai se c'è quella gente lì. Già. Va bene, insomma, lei vuole... Sono molto contento. Due. Berlusconi adesso si ricandida. Già. Lui non si ricorda che un anno fa ha portato l'Italia sull'urlo del baratro, già, dove è arrivato a 85 punti e spread. Già. Monti lo ha abbassato, ha dato credibilità. E va bene, questo l'abbiamo già detto. Terzo, lei vuole dire tre cose, tre punti? Terzo, Regione Lombardia. È un scandalo che succede nella Regione Lazio e la Regione Lombardia del Consiglio, soprattutto la destra e la Lega. È una cosa che non possiamo accettare come cittadino, non possiamo accettare. Hai capito? Berlusconi deve andare via, non possiamo averlo noi qua, perché lui... Va bene, Daniel, mi sembra che lei abbia espresso chiaramente il suo pensiero, e allora passerei la parola a qualcun altro. Chi abbiamo? Emanuele dalla provincia di Latina. Buonasera. Buonasera a tutti e complimenti per la, sembrerà un ossimoro, ma per la gradevole fastidiosità di questa zanzara condotta da lei, sicuramente qualitativamente per noi ascoltatori, almeno per me, molto più gradevole da ascoltare rispetto agli usuali conduttori, non me ne vogliono, ma preferisco lei. Ma io la ringrazio. Senta, per quanto mi riguarda, certo, Emanuele, che dire, andiamo al dunque. Allora, guardi, io volevo sottolineare riguardo la formazione di questa lista Monti, questo partito di centro con guida Mario Monti, con tutte queste, come aveva sottolineato anche lei, con i vari Chino, Buttiglione, Gianfranco Fini, insomma persone che sono da più di 30 anni sedute in Parlamento e che improvvisamente ci dovrebbero rappresentare il nuovo. Beh, io come me, come ascoltatore, chiedo a lei, media, anche in costruttore di coscienza politica, di porre a queste persone, che magari a questi parlamentari come Crosetto che ha intervistato prima, alcune domande, per esempio di spiegare a noi popolo come mai hanno ritenuto opportuno appoggiare determinati provvedimenti come il MES o come il Fiscal Compact, o come sia improvvisamente giusto, come dice Mario Monti, cedere porzioni di sovranità nazionale perché ce lo chiede qualcuno che non si sa bene chi è. Ecco, io non vorrei sembrare un fan di George Orwell, ma 1984 è molto meno di quello che sta accadendo adesso. Bellissimo, Emanuele, con questo io mi fermerei qua, anche perché c'è il giornale radio, torniamo dopo. 824 00 24. La zanzara. Salirò fra le rose di questo giardino. Salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Delle corporazioni, delle lobby, di forme arcaiche di sindacalismo, mentre il sindacalismo in generale ha un grande valore, e quindi per favorire un cambiamento del paese. E Monti in diretta all'attesa conferenza stampa dopo questo pomeriggio di vertici. Alla ricerca di una soluzione, credo, per presentare queste liste. Sentiamo ancora che cosa dice Monti. Non immaginare alleanze con gli uni o alleanze con gli altri. Questa è una operazione, noi crediamo, di rinnovamento nel profondo della politica italiana, che può e che deve un giorno avere vocazione maggioritaria. Noi crediamo che se il paese deve... No, insomma, continuiamo a sentire qualcosa di Monti. Intanto vi dico cosa ha detto in apertura. Ha detto: darò incoraggiamento a chi sostiene la mia agenda, ampio consenso ampio e credibile da parte dei centristi alle sue proposte. Intanto, quello che si sa, tramonta però l'ipotesi di una lista unica alla Camera. Sarebbe una federazione di liste. Monti ha detto: l'emergenza non è ancora finita, ora però dobbiamo occuparci della crescita e dell'occupazione. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, naturalmente, come ogni sera, anche se adesso parla Monti, giusto farlo sentire un po', perché insomma, c'era molta attesa. Il mio desiderio di favorire il dibattito politico italiano facendo in modo che le forze politiche si schierino sulle idee e non che io mi schieri a favore di questo partito o contro quell'altro partito. E c'è questa prima positiva importante risposta di schieramento sulle idee. È stato inventato da altri prima che da me questo riferimento all'agenda Monti e abbiamo visto che è un riferimento che può essere mobilitante. Non ho mai pensato di creare un partito. Ci sono state troppe cose affrettate e strumentali nella vita politica italiana incentrate su singole personalità. È ovvio che io non sono l'uomo della provvidenza, non posso risolvere situazioni che altri non potrebbero risolvere. Con tanta buona volontà credo di essere riuscito a far lavorare insieme forze che non avevano mai lavorato insieme nel passato e credo che questo abbia consentito all'Italia di mettersi in sicurezza. E questa è la ragione per cui vengo richiesto ora di favorire un rassemblement, proprio un lavorare insieme da parte di diverse forze. Verrà preparato uno statuto, una modalità che consenta una ordinata e proficua coesistenza e cooperazione tra forze politiche, movimenti, associazioni, individui. In termini elettorali, visto che la scadenza è vicina, so che questo dibattito tende a presentarsi in termini di lista unica o non lista unica. È stato molto interessante vedere le posizioni emerse nella riunione di oggi. È stato deciso che al Senato, dove anche per ragioni tecniche questo è consigliabile, ci sarà una lista unica provvisoriamente denominata Agenda Monti per l'Italia. Non so se questa sarà la denominazione definitiva. Anche per la Camera i partecipanti alla riunione mi hanno offerto la loro disponibilità ad accettare una lista unica. Ma io ho pensato che proprio rifiutando il personalismo nella politica e rispettando le diverse identità, le diverse storie, fosse più opportuno, più significativo avere una lista dell'UDC, per esempio, e in particolare, cioè di una forza politica che ha visto per prima tra le forze politiche i limiti del bipolarismo combattivo e che è stata ancora più delle altre un sostegno permanente all'attività del nostro governo e così ci sarà quella lista, ci sarà una lista civica, non so se ce ne saranno altre anche perché il processo di adesioni è ben in movimento e ci sarà una coalizione di queste liste. Vigilerò sull'osservanza di certi criteri nella formazione delle liste, questo è molto importante, saranno stabiliti standard e criteri esigenti, questa è una delle cose che i nostri cittadini domandano e accetterò di incoraggiare questo sforzo congiunto della politica responsabile e della società civile nelle forme che saranno definite, per esempio accettando, immagino, di essere designato come capo della coalizione o comunque dando il mio impegno per il successo di questa operazione che, ripeto, non è contro questo, contro quello, ma è... Vabbè, insomma, abbiamo quello che volevamo, cioè volevamo sapere tutti come si presenterà Monti alle elezioni. Adesso sappiamo che ci sarà una lista Agenda Monti per l'Italia al Senato che gli elettori troveranno sulla scheda elettorale. Invece nella scheda per cui si voterà alla, con la quale si voterà alla Camera, ci saranno i simboli di una lista civica che sostiene Monti, quella di Montezemolo probabilmente, e dell'UDC e forse di qualche altro partiti che saranno federati, coalizzati proprio nel sostegno a Monti. Sta continuando a parlare, adesso vediamo se dice qualcos'altro, ma credo che la sostanza fosse questa. Del resto c'era bisogno che Monti dicesse qualcosa, visto che ancora il Presidente del Consiglio, uscente ma in carica, ha tenuto delle riunioni, non si sapeva bene perché e per come, adesso ha spiegato. 19.25, 800 24 00 24, ma... oggi è stata la giornata anche del magistrato che si candida, Piero Grasso, dopo che si sapeva anche di altri. Noi oggi vi chiediamo se è giusto che i magistrati passino dalla toga alle aule del Parlamento. Sentiamo Grasso. Allora qualcuno si chiederà perché questo cambiamento. Ho passato la vigilia di Natale una settimana col mio nipotino, con mio figlio e mio nipote. E ho riflettuto, vedevo un bambino che già va alla prima elementare a 6 anni, che aveva tanta voglia di imparare, e mi chiedevo che futuro avrà questo mio nipotino. Io non voglio usare salite o discese, io ho finito la mia esperienza, mi sposto semplicemente. Abbiamo detto Lombardia decisiva, sentiamo Salvini, perché la Lega correrà probabilmente da sola con Maroni, insomma, poi non lo so, magari alla fine faranno il contrario di quello che hanno detto fino ad ora, è in sospeso l'alleanza tra il PDL e la Lega, però insomma la Lega mostra i muscoli ed è strano perché in questo momento i sondaggi, insomma, alcuni la danno bassa, 5, 6, 7%, meno di tutte le altre elezioni. Però quando poi le elezioni si fanno in terra del nord può succedere di tutto. Sentiamo Salvini. Tra l'altro la Lega, che si candida a essere l'unica forza che apertamente raccoglie lo scontento del governo Monti. L'altro ieri ero in Corso Vercelli, che è una delle vie più chic di Milano, a parlare con alcuni commercianti. La metà dei commercianti di Corso Vercelli, quella dove va Mario Monti a bere il caffè, se lo pigliano, lo pigliano a calci in culo, perché chiudono. Perché chiudono? Lo spread si sarà dimezzato, ma se io chiudo il negozio perché la gente non ha un euro da spendere, io se vedo Mario Monti lo piglio a calci in culo. 800 24 00 24, c'è anche un Berlusconi di oggi sulla questione delle presenze in TV. Oggi la Agcom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha emesso il regolamento della par condicio, quindi anche Monti, che non è candidato per ora, rientrerà in questo regolamento, e questa conferenza stampa sicuramente dovrà essere assommata negli spazi sfruttati dalla sua parte politica a questo punto, perché sapete che da parte del PDL c'è stata una richiesta in questo senso. Sentiamo Berlusconi. Io mi sto concentrando sulle partecipazioni alle televisioni, alle trasmissioni televisive. Se invece dovessero veramente ridurre questa possibilità a poche presenze, penso che farò un piccolo giro d'Italia, e in questo caso non potrei assolutamente mancare ad essere nella vostra regione. In camper, chissà come lo farà il Giro d'Italia. No, sicuramente non in camper, forse in nave. Risentiamo un pezzettino di Monti, che sta continuando a parlare, credo, ancora al Senato. Una maggioritaria, nel senso che non aspira a riempire nicchie lasciate da altri, si presenta in modo molto aperto e identifica come elemento di appartenenza valori e impegni che noi speriamo, e se non sarà così subito si lavorerà affinché questo accada, sono diffusi nella popolazione e tra le forze politiche e soprattutto nella società civile. Abbiamo avuto veramente una reazione, ma direi reazione dopo pubblicata l'agenda. Va bene, ci fermiamo, facciamo gli aggiornamenti di borsa. Monti sta continuando a parlare, noi però tra poco vogliamo sentire anche i vostri interventi all'800 24 00 24. Prima la borsa. La Zanzara. 19.33 minuti, rientriamo, sentiamo i titoli del TG e poi subito i vostri interventi all'800 24 00 24. TG3. Bersani non candido ministri, il procuratore antimafia in lista con il PD, una scelta sofferta e irreversibile per cambiare l'Italia. Vertice con Monti per sciogliere i nodi su liste e candidature, il presidente dei Vescovi Bagnasco, le sue capacità sono riconosciute da tutti. L'Authority approva le regole per la par condicio, varranno anche per il professore, Berlusconi se mi fermano girerò le per TV locali, presto in PDL sulla Lega, depositata in gran segreto la sentenza di separazione fra Berlusconi e Veronica Lario, il Cavaliere dovrà versare all'ex moglie 36 milioni di euro l'anno, l'antitrust chiede di rompere l'oligopolio del mercato dei carburanti presentando un'indagine sulle pompe bianche che fanno risparmiare fino a 13 centesimi il litro, ore cruciali per gli Stati Uniti, Obama cerca di evitare in estremis il baratro fiscale provocato da deficit e debito, alla Casa Bianca i leader democratici e repubblicani, la rabbia di Lerici contro le accuse del prete di San Terenzo alle vittime di stupri e violenze, sulla vicenda interviene anche il cardinal Bagnasco, una cosa grave e triste. Abbiamo Claudio che ci chiama da Roma, buonasera, benvenuto. Buonasera, devo dire che sono abbastanza deluso, ho sentito quelle frasi di Grasso che il procuratore di Palermo guarda il suo nipotino e si domanda che futuro avrà questo bambino, è allucinante, tenuto conto poi che Grasso in precedenza aveva dato una mezza idea che voleva candidarsi con Monti, poi all'ultimo momento forse hanno dato che Bersani ha molte più possibilità di portare a casa nomi e chiaramente anche lui si candidava con Bersani, però la cosa che a me dà fastidio nel procuratore Grasso è quello che successe qualche anno fa, quando mancò di etica nel concorso al procuratore di Palermo, quando diciamo fu colluso nei giochetti tra Caselli, il PDL che fece la legge perfetta ad persona, ma chiamiamola, e lui ne approfittò. Io le dico francamente al mio nipotino, se fossi stato procuratore, Avrei avuto piacere, nipotino, avesse detto: nonno, la cosa più bella che hai fatto è il passo indietro per non rubare il posto a un tuo collega di tanti anni. Vabbè, questo benissimo, secondo sì, lei. Sì. No, no, cioè, questo, lei auspica questo, ma non c'entra niente. La questione del nipotino è stato un passaggio di questa conferenza stampa, secondo me, sì, ma poi magari andava seguito, andava capito un po'. Un po' poco centrato forse, questo sì. Comunque, grazie Claudio. Andiamo a Giancarlo dalla provincia di Frosinone. Buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io volevo semplicemente dire una cosa a tutti gli italiani. Era un appello il mio, più che un intervento ad persona. Vada, vada, l'aspettiamo, la sentiamo, forte e chiaro. Io mi chiedo per quale motivo Monti si candida alle elezioni. Perché si candida? Allora, carissimi italiani, visto che il signor Monti non ha fatto altro che indebitarci, metterci tasse e distruggere tutte le aziende, e non solo distruggere le aziende, distruggere il potere d'acquisto degli italiani, metterci Serpico alle spalle e controllare tutti i nostri spostamenti di soldi, anche la mancia ai nostri nipotini, anche le piccole spese quotidiane. Questo modo di fare non ha fatto altro che danneggiare gli italiani. È un anno che lui è entrato per risolvere il problema degli italiani, non ha fatto altro che insegnare agli italiani che cos'è lo spread. Solo questo ci ha insegnato. L'80% degli italiani, prima che venisse Monti, non sapeva nemmeno che cos'era lo spread. Oggi lo sappiamo quasi tutti. Però questa però è almeno una cosa positiva o no? O anche questa è una cosa negativa? No, chi perché, se ne frega dello spread? Basta con questo spread. Appunto, che senso ha sapere che cos'è lo spread quando non possiamo comprarci un chilo di bistecche per poter andare avanti? Quando non possiamo pagare la bolletta della luce? Monti fa il professore e sa molto. Ma guardi che su questo non sono d'accordo con lei. Sul resto poi ognuno giudica. Ma cosa c'entra che Monti fa il professore? Non è che lo spread... Mi scusi, Giancarlo, mi scusi. Non è che lo spread è una cosa da professori. Non lo sapevamo che cos'era lo spread, come tante altre cose che non sapevamo, però sappiamo che lo Stato è indebitato e questo debito viene ad un interesse, e questo interesse più è alto e più noi ci indebitiamo ancora. Questo ci deve interessare, Giancarlo, se no di che cavolo stiamo parlando? Scusi, lei si ricorda quando nel 92 i bot rendevano il 14% e sì, non c'era il signor Monti che parlava di spread, nessuno ne parlava. Ma erano proprio gli anni in cui ci siamo indebitati, guardi, non è con il bot al 14% che possiamo risolvere i nostri problemi, sai? È proprio quello che li ha causati. Il signor Monti non ha fatto niente per abbattere quello che è il rimborso delle spese ai parlamentari. Sì, sì. Su questo può avere ragione. Sì, e sì. Allora perché non ha fatto niente? Adesso lo vogliamo andare a votare e far venire al governo per indebitarci ancora? Cioè il signor Monti tornasse a fare il professore. Va bene, Giancarlo, grazie. Io intanto puntualizzo quello che è emerso da questa conferenza stampa, che tra l'altro è ancora in corso. Sentiamo Monti. Politica, il rapporto tra... Allora, sono domande. Allora, i punti fermi sono questi. Ci sarà alle prossime elezioni una lista che si chiama Agenda Monti per l'Italia. Sarà una lista al Senato che candida Mario Monti alla presidenza del Consiglio. Alla Camera ci saranno due o tre liste. L'UDC, una lista civica di Italia Futura e forse anche un'altra lista. Che si federeranno per candidare appunto sempre Monti. Ha detto che vigilerà sulla scelta dei candidati, Mario Monti, visto che c'è il suo nome nella lista, nel simbolo, e questi sono gli unici punti fermi che abbiamo al momento. Torniamo ai vostri interventi con Giacomo che ci chiama dalla provincia di Torino. Buonasera. Grazie, buonasera. Due o tre osservazioni rapidamente. Primo, una parola di apprezzamento vivissimo per la qualità della conduzione della trasmissione. Lei riesce a farci intervenire in modo, talvolta diciamo anche delle stupidaggini, è vero, noi cittadini quando interveniamo. Anch'io, guardi, ne dico tanto. Ci permette almeno di parlare e poi magari ci controbatte giustamente, sì, facendo le dovute osservazioni. Chiuso il primo punto. Secondo, Monti sta facendo la conferenza stampa. Io credo che siano minuti che cambieranno un po' la storia di storia politica parlamentare prossima e che lascerà probabilmente un'impronta anche negli anni successivi, se le cose vanno come sembrano essere incamminate. Anzitutto ciò che Monti rappresenta non lo percepiamo, secondo me, questa sera. Nei prossimi giorni, nei prossimi 15-20 giorni sicuramente ci sarà una fioritura e sviluppo che oggi al momento è imprevedibile. Ha scompigliato, ha sparigliato la politica classica nostra, creando problemi agli uni e agli altri. La scelta del centro di correre sul carro di Monti è stata intelligente nell'interesse di chi l'ha compiuta. Bersani dice che numerosissimi punti del programma dell'agenda coincidono con quelli del programma del PD. Ora cosa potrà avvenire tra le due formazioni? È comunque strano che Monti abbia poco fa detto: non mi candido, non rinuncio alla carica di senatore a vita che ho ricevuto dal Presidente della Repubblica, e questo suo entrare come candidato presidente sulla base di un'agenda di idee da realizzare. È interessante, è nuovo questo fatto. Ultimo punto, sì. No, penultimo punto, il Vaticano, mi spiace, i cattolici italiani dovrebbero essere abbastanza cattolici adulti, almeno tale io mi ritengo, e questo intervenire, insomma, che Bagnasco ci dica che Monti è apprezzato in Italia e all'estero, non ce lo deve dire Bagnasco, lo sappiamo tutti, purtroppo questo modo di fare crea qualche problema. Ultimo, i giudici. I giudici, come tutti i cittadini, secondo me possono partecipare anche candidandosi a cercare di creare il bene comune, cercare il bene comune. Chiaramente è una libera scelta, non si deve, dal mio punto di vista, poi, finita l'epoca politica, tornare indietro. Va bene, va bene, grazie, ci fermiamo qua. Voglio sentire ancora un pezzettino di Monti, se sta dicendo qualcosa di interessante sulle liste. L'Italia ha di fronte a sé e con essa l'Europa. Grazie. Grazie a tutti. Perché dunque in agenzia è uscito a Bondi la due diligence sui candidati, quindi sembra che ci sia un incarico per Enrico Bondi a supervisionare in qualche modo la scelta dei candidati. Vedremo poi quali saranno le successive precisazioni. Andiamo ancora con i vostri interventi. Chi abbiamo in attesa già da un po'? Andiamo a Caserta. Marco, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Eccoci qua, prego. Buona festa a tutti, innanzitutto. Quello che volevo fare in questo momento era una provocazione, un po' di fantapolitica, nel senso che, tralasciando gli aspetti meritocratici sul cosa ha fatto Monti, ha fatto bene, ha fatto male, ognuno sa e può decidere. L'unica cosa che ha portato, come ha detto anche il precedente ascoltatore, alla ribalta lo spread. L'ultima massaia d'Italia sa oggi che cos'è lo spread. Si parla di spread a destra e a manca, da nord a sud, come se fosse l'unico male dell'Italia. Io fondamentalmente penso che probabilmente tutto ciò che ha portato Monti alla ribalta non è stato altro che una conduzione dell'alta finanza per far sì che Monti diventasse il supereroe, il salvatore della patria agli occhi degli italiani. Fondamentalmente dice, beh sì, Monti ha fatto qualcosa, ha fatto, nessuno aveva fatto niente fino ad oggi, nessuno aveva mosso una pietra, nessuno si era preoccupato di andare a risanare i conti pubblici del paese. Monti ha fatto qualcosa, ma nell'interesse del singolo, del cittadino, o effettivamente di quel che si paventa, ovvero della massoneria economica finanziaria a livello europeo, dove tutti danno un appoggio per far sì che poi l'ago della bilancia si sposti. Sì. Senta, io dico solo una cosa, ognuno poi è libero di pensarla come vuole, ovviamente, però insisto su questo concetto che io personalmente la penso così. Lo spread non è una cosa di alta finanza, non è una cosa da professori universitari o da massoni. Lo spread è misura, diciamo, il livello di interesse che l'Italia paga per essere indebitata. Siccome l'Italia è indebitata, e questo è un fatto che monti o non monti, è così, e questo debito qualcuno ce lo paga, e noi misuriamo quell'interesse che paghiamo. Questa cosa, secondo me, che è passata nella mentalità comune sui giornali, non è che sia merito di Monti, purtroppo era l'emergenza, e quello che è successo stava arrivando a dei livelli che non erano più tollerabili. Quindi se c'è questa consapevolezza oggi diffusa, secondo me è un fatto positivo, perché oggi la gente sa una cosa che prima non sapeva, che se questo indebitamento cresce sopra certi livelli l'Italia va a sbattere e rischia di fallire. Questo secondo me non c'entra nulla con le banche e con l'alta finanza, è proprio un fatto che è così, e credo che esserne consapevoli oggi abbia aumentato, diciamo, il nostro senso di responsabilità, il grado di informazioni. Ci fa bene sapere questa cosa qua. Poi certo non si misura tutto con lo spread, anzi tutt'altro, ci sono mille altre questioni fondamentali da sapere, che riguardano la nostra vita, ma la nostra vita è anche in questo, capite? Cioè, nel senso, facciamo parte di uno Stato che, come ha detto Monti quando è arrivato a Palazzo Chigi, erano a rischio il pagamento degli stipendi pubblici, insomma, vabbè. Poi le cose fatte o non fatte, questo ognuno si divide, giudica giustamente, però questa questione dello spread, ripeto, non è una roba da alta finanza o da massoneria, non è così. Qualche ascoltatore che mi dia torto vorrei adesso a questo punto, anche se ne abbiamo già sentiti. Francesco da Grosseto, buonasera. Ah, buonasera, buonasera. Sì. Ma è giusto quello che ha detto lei. Io, guardi, io parlo da operaio, sono camionista, però voglio dire, quello che ha detto lei è giusto, però che il fatto che Monti abbia operato, insomma, tenendo presente, molto presente, il discorso delle banche, il Vaticano, quello che gli diceva la Merkel, questo è indubbio, perché insomma il fatto che lui viene fuori a dire ho salvato l'Italia, ma da cosa l'ha salvata l'Italia? tutti fecero buoni a salvare l'Italia tassando non, a più non posso, ha rimesso la tassa sulla prima casa. Io pago un mutuo, io come tanti altri, un mutuo devo pagare anche una tassa su una casa che io la uso per abitarci, non è che la uso per andarci, però a livello di politico, a livello non ha fatto niente per abbassare le spese. Francesco, mi sembra chiaro quello che vuole dire, e tra l'altro non voglio toglierle spazio, però siccome invece abbiamo un ospite che abbiamo avuto qualche problema a raggiungere, lo salutiamo, Alfredo Mantovano, buonasera, benvenuto. Sì, buonasera a voi, agli ascoltatori, chiedo scusa. No, si figuri, insomma, tanto abbiamo ancora tempo. Come definirla? Ex PDL ufficialmente? Sì, ufficialmente sì. Ha sentito la conferenza stampa di Monti, qualcosa, ha avuto modo? Ero proprio lì, questo è il motivo per cui ho chiesto. Ma lei per caso ha partecipato anche all'incontro del pomeriggio? No. Se ce lo può dire, no? No. No. Vabbè, insomma, comunque ha seguito la conferenza stampa, cosa le è sembrato? Qualche notizia c'è, insomma, la lista unica al Senato, la Camera sì, no? La lista unica al Senato, la Camera mi pare che sia ancora da definire, ma comunque l'orientamento è verso una pluralità di liste. È chiaro che si cerca di superare diciamo il quadro che finora c'è stato a livello politico con la contrapposizione frontale guardando ai contenuti, cioè la cosa più interessante è questo appello a guardare ciò che si deve fare, a trovarsi d'accordo su questo e poi a vedere con chi si condivide questa avventura. Senta, ma lei personalmente, tra l'altro, in quale lista potrebbe concorrere? Cioè in una lista civica, nella lista del Senato? Guardi, io ho avuto un invito del quale sono lusingato, però ritengo che questo impegno sia in qualche misura la prosecuzione, perlomeno nella sostanza, del lavoro fatto certamente nell'ultimo anno, ed è un lavoro che ha visto l'attuale governo sostenuto dal Popolo della Libertà, ma anche del lavoro fatto negli anni precedenti. Non c'è una frattura, per esempio, su alcuni provvedimenti condivisi in sede europea, per cui ritengo che l'adesione debba essere non soltanto a titolo individuale, ma in condivisione con tanti colleghi del PDL che oggi hanno manifestato un interesse ai contenuti dell'agenda per l'Italia, o ci stanno pensando seriamente e in questo momento stanno riflettendo in vista di una scelta. Ha detto Berlusconi che siete pochi e portate pochi voti. Io per ora ho letto sui giornali, come credo quasi tutti, di lei, di Cazzola, di Mario Mauro e di Frattini. Sì, c'è anche un gruppo che già si era staccato qualche settimana prima, quello della Bertolini. Guarda, io ho troppo affetto nei confronti del presidente Berlusconi per fare un briciolo di polemica nei suoi confronti. Gli sono grato per l'esperienza che mi ha consentito di fare al suo governo per quasi 9 anni. È un momento particolare, Mantovano, perché io poco fa ho letto la lettera di Gabriele Albertini, che ha confermato la sua candidatura in Lombardia, a Berlusconi, in cui conferma di andare avanti, chiede, non è che chiede scusa, però insomma molto sommessamente, in toni di grande amicizia, quello che sta facendo anche lei, cioè tutti riconoscono l'amicizia, però tutti vi state allontanando, in amicizia. Però, è uno dei motivi per cui lei se n'è andato è anche perché lui si vuole ricandidare, Berlusconi, o no? Ma guardi, uno dei motivi per cui io ho accettato i contenuti dell'agenda per l'Italia è che mi riesce difficile immaginarmi coinvolto in una campagna elettorale che si schieri frontalmente contro dei documenti che l'Italia ha sottoscritto col precedente governo, cominciare dal Fiscal Compact per continuare con la conferma di stabilità. Avrei difficoltà a fare una campagna elettorale di questo tipo e quindi non è, io spero che si comprenda il disagio in questo momento, che non è soltanto mio ma è di tanti, e in questo momento tante vicinanze politiche conoscono, che sono durate anni se non decenni, conoscono delle distinzioni, che significa che non c'è soltanto opportunità buonismo, come maliziosamente qualcuno dice. Perché questa, in effetti, ora io non parlo di lei, però questa critica un po' aleggia, no? Non tanto una questione, anche una questione di opportunismo, però una questione, per esempio, torno sulla questione delle liste. Circolano nomi, possibilità, si parla di impresentabili che Monti non vorrebbe in lista, però di fatto gli animatori un po' che spingono, Casini, probabilmente anche Fini, ieri abbiamo sentito Ichino, lei, parliamo anche di parlamentari che sono comunque anche di lungo corso. Ichino è stato eletto la prima volta nel 79, Casini credo pochi anni più tardi. Stiamo parlando di uno dei più grandi giustavolisti. No, però mi faccia finire, ovviamente, non sto parlando della qualità, però sto dicendo questo, quando Monti, ma la qualità è importante. Però quando Monti dice che lui non si pone né di destra né di sinistra, ma come un innovatore rispetto a chi vuole conservare, come crede che lei possa portare avanti questa idea, questa bandiera, portandosi però dietro persone che insomma, sono molti anni che vivono nella politica? Beh, perché non c'è un criterio esclusivamente di novità anagrafica o di presenza o di anni di presenza in Parlamento. C'è anzitutto un criterio di qualità. Io mi fermo all'ultimo, il nome è Dea Sat. Ichino ha dato un contributo importante al dibattito sulla riforma del lavoro, perché privarsi di questo contributo nel momento in cui i temi della disoccupazione e dell'accesso al lavoro sono temi centrali? E peraltro ha anche rischiato, diciamo cosa volevano fare di lui le Brigate Rosse, quindi sto sì. Parlando di persone che hanno messo a disposizione la professionalità delle istituzioni. No, ma è evidente che poi la qualità delle singole persone, io poi personalmente la penso come lei, però è proprio la possibile contraddizione in quello che dice Monti, cioè siamo degli innovatori rispetto a chi vuole conservare, avendo invece comunque portandosi dietro persone che sono avevano avuto l'opportunità di innovare, mettiamola così, molte volte prima in Parlamento, avendo già avuto opportunità di governo, di commissioni, di Parlamento, però su questo ha risposto e mi sembra chiaro, lei punta la novità sulla collega qualità. Alla sostanza sì. Poi passa anche dalle persone, ma se una persona ha delle esperienze e delle idee nuove credo sia il massimo. Tra l'altro le risulta perché lo ha detto Monti poco fa, lei era lì alla conferenza stampa, sì. Che ruolo sarebbe quello di Bondi alla due diligence sui candidati? Ma credo che sia una verifica della rispondenza dei criteri di presentabilità, questo mi sembrava di capire, l'ho ascoltato anch'io come l'ha ascoltato lei. Quindi sarebbe comunque una, come dire, una presa di posizione piuttosto forte, insomma, Monti vuole delle liste impeccabili. Io immagino che sia, ma questa è una mia personale interpretazione che non vuole essere assolutamente l'esegesi delle parole di Monti, che ci sia qualcosa di più rispetto a ciò che è stabilito dal decreto sulle incandidabilità, che è un elemento, come sappiamo, sì. Sentenza divenuta irrevocabile oltre un certo numero di anni di esecuzione, immagino che ci sia una griglia un po' più stretta, forse conforta. Vedremo poi, perché ripeto, ci sono liste di impresentabili, si dice insomma Cesa piuttosto che altri, insomma lo so che poi è spiacevole fare nomi, però lei dice che insomma, qualche sorpresa potrebbe esserci. No, dico che ci sarà qualcosa di ulteriore rispetto alla legge, altrimenti basterebbe una persona, no? Senta, visto che lei viene dalla magistratura, anche, quanti anni sono che non è più magistrato? Io sono in aspettativa dal 96, cioè dalla prima volta dalla prima che è stato eletto. Cosa ne pensa di questa polemica che è riemersa, che però vede da un lato il Codacons addirittura fare un ricorso al TAR? Sì. Abbiamo sentito il segretario di SEL, Nichi Vendola, esprimere qualche perplessità. Sì. Lui che normalmente su questo tema non credo che abbia grossi problemi. Sì. Sappiamo che una parte del suo ex partito, il PDL, su questo non la vede di buon occhio. Lei che dice? Ma guarda, io faccio due considerazioni. La prima, vi è certamente un problema attraverso le candidature di possibile commistione tra politica e attività giurisdizionale, però a me quello che preoccupa di più è quando un magistrato, svolgendo le sue funzioni, fa attività politica, nel senso che compie degli atti giurisdizionali che sostituiscono scelte della politica, e questo è avvenuto tante volte negli ultimi anni, dalle vicende che hanno riguardato i servizi segreti alle vicende che hanno riguardato l'immigrazione e così via. Non voglio interromperla perché si è finito, altrimenti ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa e finiamo subito dopo con Alfredo Mantovano, tra un attimo. Normalmente sentiamo solo... Se vuole le scendo nel dettaglio. No, vabbè, ma ci crediamo. Però stava rispondendo sulla questione appunto del passaggio. Grasso, per esempio, ci sono delle differenze da fare. Si è dimesso definitivamente perché comunque era a tiro della pensione, diciamo, certo. Chiaramente, perché a settembre era dismesso. Guardi, a parte quella considerazione che facevo prima, io credo che ci sia da distinguere caso per caso. Un conto è, per non fare nomi, Ingroia, il quale mette su un'indagine che coinvolge direttamente la politica e le istituzioni nel modo che conosciamo, e poi la lascia nel momento in cui sta per iniziare il giudizio, e dopo qualche giorno in Guatemala torna in Italia e si presenta alla politica. Un conto nel caso di Pietro Grasso, che non aveva giudizi in corso sotto la sua stretta direzione, che ha alle spalle una carriera onoratissima e riconosciuta da tutti come imparziale, e che alla fine di questa carriera fa questo passo. E un conto ancora, se mi permette, perché è un caro amico, è Stefano D'Ambroso, che era già in aspettativa perché fuori ruolo e che comunque ha svolto un'attività antiterrorismo sulla cui imparzialità nessuno può dire nulla. Senta, per concludere questa breve chiacchierata, l'ultima cosa, è chiaro che però uno dei compiti della prossima legislatura sarà quello di dire norme certe sul punto, perché così evitiamo ogni volta di tornare sugli stessi discorsi. Certo, questo sì, evidente, ma e poi ci torniamo proprio perché non vengono mai risolte queste questioni aperte. Si può immaginare che la lista Monti, insomma agenda, come che si chiama adesso, mi sono perso, agenda Monti per l'Italia, dialogherà con Bersani, con la sinistra, no? Questo mi pare quasi scontato. Io sto aderendo proprio perché non mi pare che questa sia impronta così netta, e mi pare che invece l'attenzione sia non ad allearsi con l'uno o con l'altro, ma intanto a puntare a vincere le elezioni, ma soprattutto a puntare a vincere delle idee e dei contenuti. Essendo notoriamente di destra, anzi essendo rubricato come reazionario, non avrei nessuna intenzione di partecipare a un'alleanza con però... la sinistra. Questo lo immagino dal suo punto di vista, però se guardiamo alle posizioni politiche oggi, l'agenda Monti è vista come fumo negli occhi da parte della Lega, Maluccio, il PDL, l'unico che apre è Bersani, quindi se Monti non ce la fa da solo... Vedo molto nervosismo da parte della sinistra rispetto all'iniziativa del Presidente Monti, e credo che un errore del PDL sia stato quello di revocare la fiducia e quindi di trovarsi in qualche misura spiazzato nel momento in cui il Presidente Monti faceva questo passo. Dopodiché devo aver perso qualche battuta intermedia, ma vorrei che qualche collega del PDL mi spiegasse perché mai fino a 15 giorni fa Monti era il candidato ideale di uno schieramento alternativo alla sinistra e poi in breve tempo non lo è diventato più, peraltro con una manifestazione, quella fatta il 16 dicembre a Roma da Italia Popolare, in cui quasi tutti gli esponenti del PDL avevano confermato questo appello. Lei è uno di quelli, anzi forse è in questo momento uno di quelli che proprio ci può confermare che se fossimo in un altro paese d'Europa Monti sarebbe alla guida del centrodestra, dei moderati. Tutta Europa esistono due schieramenti, quello della socialdemocrazia e quello dei popolari europei, e 15 giorni fa, come voi stessi avete informato fra gli altri, Monti e Berlusconi erano insieme al vertice dei responsabili dei partiti popolari che si riconoscono nel PPE. Quindi però la conclusione di questa è che l'anomalia attualmente è rappresentata dal PDL, che invece... L'anomalia è che lo schieramento non si è ancora formato, mi auguro sia solo questione di tempo. In che senso lo schieramento? Uno schieramento ampio, alternativo alla sinistra, in questo momento non c'è, come invece esiste in altri paesi europei. Mi auguro che sia solo questione di tempo e che maturi, magari prima delle elezioni, ma è una speranza, mi rendo conto, molto simile all'illusione. Lei vede nell'operazione Monti la possibilità che possa proprio contribuire a questo, cioè a portare a un nuovo bipolarismo? I contenuti vanno in quella direzione, esattamente in quella direzione. Va bene, grazie mille Alfredo Mantovano, auguri anche di buon anno, visto che è stato con noi proprio in questi giorni di immediata vigilia. 25 minuti, facciamo i titoli, cosa abbiamo? Il TG1. Monti pronto ad accettare designazione a capo della coalizione, lista unica al Senato più lista alla Camera, mai pensato di creare partito, non sono uomo della provvidenza. Berlusconi, Monti si candida contro chi lo ha sostenuto, se non mi invitano in televisione farò un piccolo giro d'Italia. Il procuratore Grasso spiega la candidatura con il PD, serve rivoluzione graduale della giustizia, Bersani, nelle nostre liste non ci saranno ministri tecnici. Fiaccolata a San Terenzo contro il parroco del Volantino sul femminicidio, al TG1 parla la madre del sacerdote, quel testo non l'ha scritto lui. L'Aquila, dopo la sentenza per il crollo del convitto, parla nei genitori di Giulia, morta sotto le macerie, per noi la giustizia è ancora lontana. La storia di Renato, ex imprenditore ora clochard, adottato alle tassisti di Milano, vende oggetti per strada e gli arriva una multa da 3.000 euro. Tutta nata storia sono i 6 concerti che da questa sera Pino Daniele dedica alla sua Napoli, sul palco agli amici di sempre, Senese, Esposito, D'Episcopo, Gran Agnello, Zurzolo ed Abitabile, la notte di Capodanno e Fori Imperiali a Roma con Mario Biondi, Chiara e J-Ax. La Zanzara. Cari ascoltatori, tenetevi pronti perché tra poco tocca di nuovo a voi all'800 24 00 24. Abbiamo già alcuni in linea, prima sentiamo i titoli di La 7. Monti incassa, incontra i centristi, annuncia, accetto di essere designato capo della coalizione che si richiama all'agenda Monti. Aderiscono Casini, alcuni ministri tecnici, Italia Futura di Montezemolo, ex PD come Ichino ed ex PDL come Mauro e molti esponenti del Terzo Polo. Lista unica al Senato, ma non alla Camera, dove ci saranno liste federate. Bersani annuncia nelle liste del PD non ci saranno ministri e poi ufficializza la candidatura di Pietro Grasso perché serve una riscossa civica e di legalità. Il procuratore nazionale antimafia lascia la magistratura e dice io in campo per rivoluzionare la giustizia. Berlusconi avverte, se non mi permetteranno di andare in televisione, girerò per le piazze d'Italia. Nel frattempo il giudice ha deciso che nella separazione non consensuale con Veronica Lario, il Cavaliere dovrà versare 100.000 euro di alimenti al giorno, cioè 3 milioni al mese. In una seduta lampo il Senato vota il decreto taglia firme. Ai partiti e ai movimenti oggi non rappresentati in Parlamento basterà raccogliere 30.000. La GCOM vara le norme sulla par condicio elettorale, varrà anche per i non candidati, cioè anche per Monti e Grillo. Borse in calo nell'ultima giornata di contrattazioni 2012, condizionate dal pericolo che gli USA cadano nel precipizio fiscale. Anche Milano giù, ma il consuntivo dell'anno di Piazza Affari è positivo. Dopo gli anni bui 2010 e 2011, la capitalizzazione di borsa segna un rialzo del 10%. Diminuiscono le nuove pensioni, gli assegni previdenziali erogati dall'INPS sono calati del 18,5% e dal 2013 scatta la riforma Fornero. Intanto per 6 milioni di pensionati mensilità più leggero per effetto del blocco della rivalutazione. Intanto vi voglio dare anche una buona notizia, perché ogni tanto si possono dare anche le buone notizie, è questa qua, in calo le auto blu in quest'anno che si è chiuso, in 11 mesi il calo è stato di 2.431 unità, è una diminuzione del 25% rispetto a quello che era stato l'anno precedente. Sempre al 30 novembre l'intero parco auto delle amministrazioni pubbliche scende sotto le 60.000 vetture, emerge dal censimento permanente, questo recita l'ANSA di oggi, del Ministro della Pubblica Amministrazione. Risparmio stimato per quest'anno di 160 milioni di euro. Ah, vabbè, insomma, dai, sono piccole soddisfazioni, però ci sono, diciamocele così. Ci ritorna il sorriso. 800 24 00 24. Giuseppe dalla provincia di Bari, credo, sì. Sì, buonasera. Prego. Cerco di essere educato, perché mi creda, come me, tanti italiani, sono arrabbiati neri. Ma arrabbiati neri, neri, neri. Allora, due questioni volevo osservare. Sì. Monti non era quello che non doveva entrare in politica, poi ha tentennato e di colpo adesso è entrato in politica. A che pro? Cioè, poi, non ha messo l'IMU al Vaticano per le chiese e queste cose qua. E poi non mi ricordo un'altra cosa che ho sentito prima, ma perché praticamente adesso il vescovo se ne è uscito e l'ha parlato bene. Allora questa è una compravendita losca di voti, perché sei sicuro che la maggior parte di questi lo voteranno. Lo voteranno. Questi chi sarebbero? Quelli del Vaticano? Vaticano, Bernasco, con tutti quelli che li vanno dietro, perché non li ha agevolati, che non ha messo l'IMU. Le ha messe la povera gente come me. Ma sull'IMU ha fatto un po' di casino, Giuseppe, perché non è che l'IMU non l'ha, cioè l'IMU è stata messa più di quello che c'era prima, ecco, mettiamola in questi termini, cioè la tassa sui immobili della Chiesa rispetto alle, come dire, alle maglie larghe che c'erano prima, adesso sono un pochino più strette. Certo, non è stata messa l'IMU da tutte le parti per i beni della Chiesa, questa poteva essere un'aspettativa, che però questo non l'aveva mai fatto nessuno, non è che è stata tolta, quindi non parlerei di un favore alla Chiesa in questo senso, perché allora c'era anche prima il favore alla Chiesa, ha capito? Poi volevo dire, vabbè, i candidati che si porta lui, sì, ma vi siete resi conto chi sono? Sono sempre gli stessi. Sì, questo l'abbiamo anche detto. L'abbiamo anche detto. Grazie Giuseppe. Andiamo ad Alessandro da Siena. Buonasera. Buonasera. Io è la prima volta che partecipo a una trasmissione di questo tipo. Sono molto emozionato e vi ringrazio e vorrei fare tutti gli auguri agli italiani. Praticamente io ho una mia idea, logicamente da povero cittadino italiano, come ho già detto. Allora io sono molto incazzato con lei. È partito tranquillo, poi si è scatenato. È incazzato col signor Monti. Via così. Sono tac. Molto incazzato con il. Vabbè, in buona compagnia, anche l'ascoltatore di prima. Perché? Lei qual è il motivo? Sì, ma il problema è un altro, perché sì, il signor Monti è vero che ha risanato l'Italia, ma soprattutto ha risanato l'apparato da cui viene, vedi le banche, tutto il sistema finanziario a cui lui fa capo logicamente. Allora io mi sento offeso, molto offeso anche, quando un'agenzia di rating declassa il mio stato. È giusto che declassi praticamente un'azienda, una banca, ma lo Stato italiano non lo può declassare, ha un'autorità, sono dei cittadini, gente che lavora. C'è milioni di anni di storia dietro a questo, alla Costituzione dello Stato italiano. Ho capito. Quindi io direi di mettere fuori legge le agenzie di record direttamente. Questo sarebbe, sì. Ma, ma lei ha toccato un nervo, perché le agenzie di rating non è che sono giudicate da tutti positivamente, anzi ci sono dei grossi problemi, conflitti di interessi, sono poche, poi quelle che hanno dato il rating ai paesi europei sono americane, per cui qualcuno ci ha visto anche un conflitto da questo punto di vista, però sa, togliere quello che lei dice, togliere il rating, si può anche togliere il rating, andrebbe tolto in generale forse, ma non solo agli stati, perché gli stati hanno milioni di anni, migliaia di anni, è vero, però quando poi si parla di debito, che ce lo detenga uno stato, un governo, lo detenga Tizio, Caio, Sempronio, Franco Piantanida o Stefano Catone, lo stesso, sa? Cioè lì sono proprio soldi e interessi che girano, quindi i meccanismi sono gli stessi e non ci si può far nulla, questo è il denaro. Grazie Alessandro, facciamo una pausa per il traffico. La Zanzara. Leggo male io o abbiamo un altro ascoltatore da Siena? Sì, Filippo da Siena, un altro, no, rispetto a quello di prima. Filippo. Sono da Firenze. Ah, da Firenze, ecco, infatti c'era un qui pro quo. Prego, Filippo. No, volevo solamente commentare le parole di Bagnasco su Monti, perché mi sembrano una novità eccezionale. Dichiarare che Monti è persona onesta o competente significa al tempo stesso dichiarare che tutti gli altri non lo sono. E questo appoggio mi sembra un appoggio che fa della Chiesa, come dire, dall'ennesima riprova della presenza politica della Chiesa come struttura, ovviamente, nella vita politica italiana. Sì, sono abbastanza d'accordo con lei, perché non si può dire che uno è biondo se ci sono degli altri biondi, cioè se si dice che lui è serio e autorevole è come dire che quegli altri non lo sono, e questo anche secondo me ci poteva anche non stare. Comunque, insomma, la pensiamo così. Tra l'altro, io vorrei aggiungere anche che la posizione e l'azione di Monti, da molti incensata, non è unanimemente ritenuta significativa e altrettanto valida, quindi si tratta di opinioni. Insomma, io ho sentito tempo qualche giorno fa, forse due o tre giorni fa, sempre su Radio 24, un intervento di Giulio Pellini che dichiarava cose completamente diverse, cioè il fallimento della politica di Monti, e anzi dava a Monti del funzionario dell'Unione Europea. Ora, queste sono posizioni. Sì, vabbè, ma poi ognuno può pensarla come vuole su Monti, ma è chiaro che se insomma, organi istituzionali della Chiesa, che rappresenta tutti i cristiani, tutti i cattolici in Italia, danno questa opinione su Monti senza occuparsi degli altri, però evidentemente implicitamente c'è un giudizio negativo sugli altri, e secondo me sono d'accordo con lei, non è una cosa come dire, si poteva evitare, ecco, non è una cosa corretta, non so qual è l'espressione giusta, però è un endorsement che ogni singolo vescovo può dare la sua opinione, il singolo parroco, ogni esponente di chiesa, questo sì, però che un organo istituzionale dia questo endorsement a uno dei candidati e non agli altri, in effetti secondo me mette anche la chiesa stessa in una posizione un po' così dubbia. Comunque grazie, salutiamo un gradito ospite, Salvatore Corriga, delegato della RSU CGL del Rockwool Iglesias. Buonasera Salvatore. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Ieri c'è stato un incontro, credo a livello regionale, perché voi avete passato il Natale sottoterra, in miniera, per portare avanti la vostra vertenza. Voi chiedete di poter continuare a lavorare, cioè il privilegio che voi difendete come casta dei minatori, sto scherzando naturalmente, è quello di poter continuare a lavorare. Guardi, se noi siamo una casta... certo. Guardi, se noi siamo una casta, non so cosa sono gli altri. Noi, guardi, rivendichiamo solo una cosa, rivendichiamo il diritto al lavoro. Noi siamo quelli che 20 anni fa hanno accettato la riconversione di un territorio. Mm. Siamo usciti dalle miniere, perché eravamo giovani in quel periodo, sì, del settore minerario, e siamo andati a lavorare in una nuova iniziativa che produceva lana di roccia. Era l'unica fabbrica in Italia, quindi lei può immaginare la soddisfazione che avevamo noi nel vedere il nostro prodotto, sì, fatto con le nostre mani e venduto non solo in Italia ma dappertutto, l'unica fabbrica in Italia, questa era la nostra grossa soddisfazione. Purtroppo non siamo riusciti ad andare avanti nel 2009, tutti i problemi che ci sono stati, la fabbrica ha chiuso, è stata smantellata e portata in India. Ecco, quindi noi non siamo certo una casta, noi stiamo con la nostra battaglia, sì, mettendo. No, ma io stavo scherzando, è ovvio, è ovvio che non siete una casta. Ma adesso, perché c'è stato qualche tempo fa la visita dei ministri, insomma, se ne è parlato nei telegiornali, sono arrivati con l'elicottero, insomma, un sacco di un incontro con il ministro Passera, il ministro Barca. Ci sono stati presi degli impegni e poi voi avete detto adesso sono stati disattesi. Sì, allora il problema è questo, che nei nostri confronti gli impegni sono stati disattesi dalla regione Sardegna un anno fa, perché noi avevamo l'accordo per rientrare al lavoro già dal gennaio di quest'anno, non è avvenuto, ci sono stati tanti problemi, ci hanno bloccato le assunzioni. Il problema qual è adesso, per arrivare al dunque, per non perdere chiacchiere inutili? Allora, lei faceva riferimento a Passera, c'è un piano Sulcis, il piano Sulcis dovrebbe portare in questo territorio denari, non è che con la chiusura delle miniere i denari non sono arrivati, ci tengo a precisare questa cosa, sono arrivati tanti soldi in questo territorio, così come probabilmente questi soldi arriveranno ora. Noi ci stiamo battendo, questo ci tengo a sottolinearlo, non perché stiamo rifiutando posti di lavoro o vogliamo fare altro, ci stiamo battendo affinché quelle risorse non finiscano in mano dei soliti personaggi. Per questo ci stiamo battendo, perché se quelle risorse finiranno in mano dei soliti personaggi... Chi sono i soliti personaggi? Come? Chi sarebbero i soliti personaggi? Soliti personaggi sono quelle persone che stanno gestendo la politica non solo in questo territorio ma in tutta la Sardegna. Questo è il nostro problema. Senta, si va a votare tra un paio di mesi, lei cosa si aspetta dal prossimo governo? Io dal prossimo governo mi aspetterei quando Monti è andato al governo e aveva anche una grossa fiducia anche da tutti gli italiani, parlava di equità soprattutto, ecco, questo non c'è stato. Ecco, mi auguro che il prossimo governo, al di là delle cose che deve fare, faccia politica vera e i politici applichino quell'equità che in questo paese manca, perché non è giusto e non è corretto che a pagare di più siano quelli che hanno meno. Questa è una, sembra retorica, sembra populismo, ma allo stato attuale è quello che sta succedendo in Italia. Guardi, io parlo di questo territorio perché ci vivo, perché vivo le angherie che quotidianamente questo territorio vive sulla propria pelle. Sì, ma le volevo chiedere questo, visto che Passera, il ministro Passera, è uno di quelli che è venuto lì a parlare con voi e adesso probabilmente si candiderà, lei lo voterebbe, l'ha conosciuto, cosa ne pensa? Se, come ministro di attività produttive? Io guardi, non l'ho conosciuto, io non l'ho conosciuto. Non c'era lei nelle trattative, no? Questo non mi cambia la vita. Io no, penso che non voterei Passera. Penso che non voterei Passera perché penso che se anche lo stesso Monti fosse imparziale non si sarebbe ricandidato. Quindi già il fatto che si stia ricandidando mi lascia qualche perplessità sulle scelte che ha attuato in questi mesi quando era al governo. Quindi se fosse veramente rimasto neutrale, così come diceva di essere neutrale, non avrebbe accettato candidature da eventuali parti politiche. Quindi va bene, va bene, ci dobbiamo fermare qua perché siamo davvero in chiusura. Io la ringrazio, Salvatore Corriga, delegato RSU CGL Rockwool Iglesias, insomma auguri, in bocca al lupo per la vostra vertenza e auguri anche di buon anno, già che ci siamo. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci risentiamo il 31, Alessio Maurizio in studio, Franco Piantanida e Stefano Catone in redazione, Pietro Lacorte in regia. Auguri a questo punto, no, di buon anno no, perché ci risentiamo il 31, quindi facciamo tempo a ridarceli. La Zanzara.